America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. People sometimes ask me why I'm conservative. Well, it starts with the fact that I'm a prosecutor, not a politician. Plus, I come from a military family. My husband Joe was a fighter pilot in Iraq. Joe and I started his small business together, so I know the value of a dollar. Kelly Ayotte ha vinto le primarie in New Hampshire. Una piccola sorpresa questa, con un'apparente contraddizione. Kelly è l'establishment. Avete sentito quello che ha detto? Lei proviene da una famiglia militare, suo marito era pilota in Iraq, non solo, ma è anche l'attorney general, il procuratore generale dello stato del New Hampshire, appoggiata dall'establishment del Partito Repubblicano. Fatto non secondario, appoggiata da Sarah Palin, ex governatore dell'Alaska. Qual è la peculiarità di questo risultato elettorale americano che confonde le carte e che ha battuto Ovid La Montagne, che era invece il candidato dei Tea Parties? Quindi in questo risultato elettorale, per la prima volta, abbiamo visto una sorta di spaccatura. La Palin da una parte, i Tea Parties dall'altra. Come mai? Da sempre abbiamo pensato che la Palin fosse poi il leader non proclamato, ma comunque in ombra del movimento dei Tea Parties. Ecco, questa volta non è stato così. Perché? Beh, perché i Tea Parties alla fine sono un movimento orizzontale, perché la Palin è una pragmatica e ha fiutato un po' il vento, ha capito che in New Hampshire l'estrema destra forse non ce l'avrebbe fatta e dunque si è buttata sulla Ayotte. Ecco, con questo risultato si sono chiusi ben 7 primarie che ci sono state nei giorni scorsi. Alla fine però il bilancio comunque per i Tea Parties è un bilancio tutto sommato positivo. You see, I believe our brightest days are ahead of us. I've traveled across New York from Plattsburgh to Ripley to the far reaches of Long Island and Staten Island. Carl Palladino ha festeggiato. Devo dirvi che per me questa è stata una grande sorpresa. In questo caso ha vinto il candidato dei Tea Parties, dunque del movimento ribelle all'interno del Partito Repubblicano, contro Rick Lazio. Stiamo parlando delle primarie per le elezioni del governatore dello Stato di New York, una delle posizioni più potenti degli Stati Uniti d'America. Però sul fronte repubblicano sembrava scontato che invece vincesse Rick Lazio, che all'appoggio del partito è stato un deputato di Long Island e un politico doc. Invece il signor Carl Palladino è un totale sconosciuto, mai sentito. È un uomo d'affari di Buffalo. Buffalo è al nord di New York, molto al nord, vicino al Canada, appoggiato però dai Tea Party. Questa è la sorpresa straordinaria, che i Tea Parties a New York non avrebbero ragione di esistere. New York è uno stato considerato progressista. Ecco, non lo è in alcune sacche del nord, però la città, l'area metropolitana in genere riescono comunque a bilanciare, a controbilanciare le manifestazioni più conservatrici che vengono dalle zone più decentrate dello Stato. Invece in questo caso questo signore è riuscito a vincere. È un signore, tra l'altro, su cui pesano così alcuni capi d'accusa politici, ovviamente usciti in campagna elettorale ma mai smentiti, a volte di razzismo, di sessismo. Dunque un po' sorprende, non sembrerebbe, diciamo, il politico. Mi avete inteso? Eppure di questi tempi evidentemente funziona e può funzionare. A questo punto, con New York si è chiuso il cerchio che conferma la straordinaria forza di questo movimento. L'abbiamo avuta la conferma di questa forza anche in Delaware, dove Christine O'Donnell, anche lei candidata del Tea Party, ha battuto Mike Castle, che è un repubblicano, certo moderato, però lei che invece è molto più a destra, ha avuto il 53% delle preferenze contro il 47% di Castle, dunque una vittoria piuttosto netta. Mi fermo qui perché il quadro è chiaro: il partito, il movimento, continuo a chiamarlo partito, non è un partito, è un movimento molto forte all'interno del Partito Repubblicano, è una forza che ci incuriosisce. Dunque siamo andati a fare due chiacchiere con il professor Giovanni Sartori, costituzionalista, grande esperto degli Stati Uniti d'America, ha insegnato anche a Columbia University, e dunque giriamo subito a lui la domanda: ma chi sono questi Tea Parties?